Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, l'appuntamento settimanale di teatro di Radio 24. Partiamo da Roma, dove è in scena al Teatro Vascello Medea fino all'11 ottobre per la regia e l'adattamento di Gabriele Lavia. Ad interpretare Medea, Federica Di Martino. Una veste preziosissima e una corona d'oro. Vedrai come sarà felice. Sarà mille volte felice. No! Sarà felice perché avrà trovato in te il più nobile degli sposi e avrà in dono i preziosi ornamenti che il padre di mio padre lasciò ai suoi discendenti. Abbiamo fatto insieme con Gabriele un'altra Medea che ha debuttato nel 2015 nel teatro di Fiesole, che era, diciamo, una messa in scena sempre moderna ma tradizionale drammaturgicamente. C'era il coro, il pedagogo, la nutrice. Questo adattamento invece che Gabriele ha avuto l'urgenza di fare durante il lockdown prevede un adattamento soltanto a due personaggi, quindi il testo è una lunga scena tra Medea e Giasone, ma fedelissima al testo euripideo, nel senso che il testo c'è tutto, ma viene recitato unicamente da questi due personaggi, da Medea e Giasone. Ed è sorprendente come questo funzioni. Questo funziona e rende il testo di Euripide davvero di una modernità sconvolgente, cioè siamo pieni di fatti di cronaca in cui ci sono, ahinoi, madri che uccidono i figli o padri che si macchiano di un delitto così grave soltanto per ferire, per far soffrire, per creare dolore al proprio compagno, per annientare completamente quello che è stata una storia d'amore. Bambini, andate dalla nuova sposa di vostro padre e offritele questi bellissimi doni. Consegnateli nelle sue mani. Non li disprezzerai. Certamente in questa direzione il momento che mi colpisce di più da interprete è il monologo di Medea in cui lei prende la decisione di uccidere i figli. Ecco, questo è molto difficile da interpretare perché è difficile da donna, quindi da attrice, astenersi dal giudizio critico su un atto così violento e terrificante. Quindi certamente questo è il momento che è più difficile da interpretare e che certamente mi colpisce di più di altri perché va oltre la mia umana comprensione. Devo subito trovare una via di scampo per il futuro e allora li ucciderò entrambi con forza e coraggio, oppure il coltello. Ci spostiamo a Napoli, dove al Teatro Mercadante debutta il 14 ottobre ed è in scena fino al 31 I manoscritti del diluvio di Michel Marc Bouchard per la regia di Carlo Cercello. I manoscritti del diluvio del canadese Marc Bouchard parla della scarsa considerazione che la società contemporanea nutre verso gli anziani, non a caso definiti in senso dispregiativo vecchi. Basti pensare a quanto è accaduto durante l'imperversare del Covid, quando ad esempio si definì la scelta di sacrificare i più vecchi sull'altare della produttività e del giovanilismo. Ma sono tante le domande che questo testo comunque pone alla nostra attenzione. Il diluvio, per esempio, genera solo distruzione o è anche catarsi? Dopo il diluvio nascerà un mondo migliore o peggiore? La memoria degli anziani andrà persa? O invece i giovani, tesaurizzando il passato, eviteranno di commettere gli stessi errori di chi li ha preceduti? Si può riscrivere la propria vita? Si può riscrivere il passato? gruppo di cinque anziani che prima del diluvio si riuniva in una sala di scrittura per scrivere a mano testi sulle proprie esperienze esistenziali, come l'arrivo della minigonna, la caccia alla selvaggina o l'esodo dei ragazzi, si ritrova nella stessa sala che ora è devastata dal diluvio. Il diluvio che ha cancellato in parte o del tutto i loro testi e quelli degli altri anziani che o sono morti o non verranno più. Samuel è il guardiano e fondatore della sala di scrittura e tenta di imporre agli altri anziani di recuperare i testi perduti facendoglieli scrivere a memoria, ma il tentativo fallisce perché gli altri anziani, per vari motivi, seguiranno il corso della loro vita e se ne andranno. Sarà un giovane, diverso dagli altri giovani della sua generazione, una sorta di angelo e di ragazzo che si chiama Danny, a memorizzare i testi perduti e a sostituire Samuel al comando della sala di scrittura. A Pesaro invece in scena Smarrimento, un monologo al femminile scritto e diretto da Lucia Calamaro ed interpretato da Lucia Mascino nell'ambito della rassegna Teatro Oltre. Sentiamo Mascino. È incredibile come certi giorni, anche certi momenti, uno sia più intelligente di altri e poi torni ad essere il solito rimbambito. L'acume è instabile, anche lui. Chi è questo personaggio? È una scrittrice, appunto, è un alter ego scenico dichiarato dell'autrice Lucia Calamaro. Il fatto che ci chiamassimo entrambe Lucia ha facilitato un po' la cosa. Questo per dire che il personaggio in scena è proprio un alter ego, dove lei mi chiedeva appunto di guardarla e di rifare delle cose. Io non mi sono ispirata davvero a lei nei movimenti e nelle modalità, certamente nella frammentarietà del pensiero che inizia da una parte e finisce da un'altra, sì, questo era di scrittura ed è una cosa forse che ci accomuna. E l'altra cosa che ci accomuna molto a me e alla Calamaro è il fatto che mi sono accorta che lavorando con lei mi veniva continuamente di fare dei monologhi ad alta voce, che tutti i miei pensieri io li dico a voce alta mentre facevamo le prove, ed è un bellissimo processo perché attraverso il monologo a voce alta da solo, diciamo, quando vai in motorino, quando stai scendendo dalla macchina, stai prendendo la spesa, è come se riordini i pensieri che stai facendo, perché così pensi una cosa per volta, mentre la mente, quando non parli, probabilmente viaggia su tante zone diverse. Di solito mi piace cominciare con chi c'è e chi non c'è, perché chi c'è, c'è. E chi non c'è invece dov'è? Che fa? Perché? Cosa sta facendo? Che fine ha fatto? Dov'è? Non c'è. Nelle mie cose, alla fine, esserci è tutto. Il gesto si riduce a poco. Ecco, quindi diciamo galleggiare tra tante immagini del pensiero che sono pensieri in corso, memorie, proiezioni, sogni e desideri e ragionamenti sul passato, insomma sono dei monologhi interiori a voce alta. Siamo di nuovo a Roma, dove è in corso Trastevere Inventari alla festa del Teatro Off fino al 18 ottobre. Abbiamo scelto per voi lo spettacolo Cascando di Pietro Dattola con Flavia Germana dell'Ipsis. Le musiche sono parte fondamentale della drammaturgia. Di solito sono scelte in modo tematico e per contrasto con le situazioni, così da esaltare contenuti, retropensieri, il portato emotivo. Le musiche però sono esse stesse spesso delle scene, cioè sono il contenuto di scene che portano avanti il fil rouge dello spettacolo. Il cuore ed il suo battito invece sono l'indizio dell'arrivo di un pensiero, un sintomo fisico in cui si traduce l'angoscia di una consapevolezza. Sì, le cose sono limitate, ma che cosa comporta poi questa certezza? Se al mondo tutto è destinato a finire, al mondo che senso ha starci? In scena accadono molte cose differenti, proprio perché non è una storia, non è lineare. Ci sono frammenti in cui si ricostruisce e si affronta una paura ed una sensazione. Ci sono tre voci che dialogano tra loro, cercando di prendere sonno. C'è una notte che pare infinita, che deve passare e che non passa. Ci sono flash di movimento, ci sono situazioni esterne più o meno comuni, più o meno comiche, in cui si cerca la soluzione al problema. Ci sono flussi in rima, strane poesie, frenetiche, in cui si cercano le parole da dare al problema. È tutto molto concentrato e molto vario. È agile e profondo, scivola via, ma resta sotto pelle. Terminiamo il nostro viaggio con la rassegna artistica itinerante Parent Love, ideata dalla scrittrice Deborah Scalzo, in scena da Alessandria fino al 5 dicembre. Un appuntamento importante, sentiamo perché. Ciao a tutti amici di Radio 24, sono Deborah Scalzo, ideatrice e direttrice artistica della rassegna artistica culturale e sociale itinerante Parent Love. Vi aspetto al Teatro Ambra di Alessandria, tutti insieme per far sì che la cultura non si ferma, ma soprattutto tutti insieme per fermare la Duchenne. La rassegna sarà in sostegno di Sparen Project APS, ma non solo, io vi aspetto con tantissimi grandissimi artisti, da Federico Poggi Pollini, Max Pisu, il maestro Alviero Martini, Antonio Ornano, Cristian Cocco, Tony Sperandeo, Michele Rosiello. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete riascoltarci su podcast e che potete scriverci a cartellone @radio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.